I sentimenti dell'essere umano sono profondamente meravigliosi. L'amicizia, il rapporto familiare, l'innamoramento e il rapporto matrimoniale sono in grado di sconvolgere in positivo e in negativo l'esistenza umana. In negativo se vissuti non secondo le regole stabilite da Dio, in positivo se praticati nel modo giusto. Poiché questi sentimenti provengono dal Dio che ci ha creati a sua immagine e a sua somiglianza, dobbiamo concludere che essi sono una imperfetta copia di quello che Dio prova. Perciò, se vogliamo comprendere i sentimenti di Dio, dobbiamo per forza esaminare i nostri sentimenti imperfetti per comprendere in parte i perfetti sentimenti del nostro Creatore. Voglio comprendere i sentimenti che animano Dio mediante uno strumento molto comune per esprimere certi sentimenti d'amore, le canzoni. In esse, a volte, si riescono ad esprimere parole meravigliose. Per questo, voglio considerarne una, del cantante Adriano Cimentano, dal titolo L'emozione non ha voce. Non si tratta di esaltare una canzone, ma di esaminarla alla luce dell'amore perfetto che un figlio di Dio dovrebbe avere. Ne ho parlato con la mia nipotina di 10 anni, la quale è rimasta vivamente colpita di questo accostamento. Per questo ho fiducia che queste mie riflessioni possano essere di aiuto a chi mi legge. Il testo della canzone è il seguente. Non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce e mi manca un po' il respiro. Se ci sei, c'è, è troppa luce. La mia anima si spande come musica d'estate, poi la voglia, sai, mi prende e si accende con i tuoi baci. Io con te sarò sincero, resterò quello che sono, disonesto mai, lo giuro, ma se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sai, io lo so, mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante questo, sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai che io non conosco. La mia compagna tu sarai fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi. Ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro da un amore che ti dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante questo, sai, per sentirti pienamente noi. Un'altra vita mi darai che io non conosco. La mia compagna tu sarai fino a quando so che lo vorrai, e vivremo come sai d'amore e di fiducia, poi sarà quel che sarà. Parole d'amore, belle e non volgari, che meritano di essere valutate alla luce del divino, perché possiamo prendere il buono del lato umano quando esso rispecchia quello di Dio. Quando Gesù disse che non carare è amore più grande che dare la vita per i propri amici, attingeva da un fatto e un sentimento umano per esaltare la sua opera divina. Dio ci parla certamente tramite la sua scrittura, ma comunica con noi anche tramite gli eventi umani, come è successo al profeta Geremia in merito alla cintura marcita e al vasaio. Chi ha conosciuto l'amore di Gesù Cristo non può che parlare di Lui. Però, per quanto si rifletta sul suo amore, la motivazione che lo ha spinto a morire in croce per degli ingrati quali siamo, ci è sempre difficile da spiegare, e per questo si può dire con la canzone «Non so parlare d'amore». È anche vero che l'emozione non ha voce, perché quello che si prova nei confronti del Salvatore, Gesù, non sempre è esprimibile con parole umane, ma una vita vissuta per Lui è il miglior modo per essere riconoscenti. Le parole potranno essere insufficienti, ma una vita esprime molto bene ciò che si ha nel cuore. Va ricordato che la vita cristiana non è altro che un atto di riconoscenza reale e pratica, espresso nell'aver posto fede nell'opera inestimabile compiuta da Cristo. A volte, come dice la canzone, manca un po' il respiro. Perché, come è successo ai discepoli, non si ha neppure il tempo per le necessità impellenti della vita, quale mangiare e riposare. È vero che, oggi come oggi, si possiede e si può fare di tutto, e per questo è possibile che si dia precedenza ai nostri bisogni anziché al regno di Dio. Quando si provano certi sentimenti di amore umano, a volte si dicono cose che sono oltre il reale, come nella seguente espressione contenuta in un'altra canzone: senza di te, meglio morire, oppure come in questa quando dice «se ci sei c, è troppa luce». Quando si è vicini, per le prime volte a chi si ama, sembra che tutto si illumini, sembra che le piante siano in fiore, anche se è inverno. Tutto diventa irreale, un irreale che si comprende solo dopo, passate la primavera e l'estate dell'innamoramento. In merito invece a Gesù la frase «se ci sei ci è troppa luce» è deliziosamente reale. È reale perché noi uomini camminiamo nel buio anche se il mondo 1. Ha acceso le sue luci sia materiali sia morali. Questa consapevolezza cristiana inizia dalla dolorosa percezione che quanto avevamo ritenuto essere la verità è di fatto una bugia. È menzogna la pubblicità che pretende di sapere di che cosa ho bisogno e che cosa desidero. È menzogna quando si promette una strada facile per raggiungere la gioia. È menzogna la politica quando finge di insegnarmi che cosa sono il potere e la moralità. Sono menzogna le bugie degli psicologi, che offrono di modellare il mio comportamento e la mia etica così che io possa vivere a lungo. Felicemente e con successo. Sono bugie le parole dei moralisti, che fingono di promuovermi al ruolo di capitano del mio destino. Sono bugie impeccabilmente precise nel contenuto, ma diabolicamente false, perché Dio è sempre visto un accessorio o un ospite, ma mai il sovrano o l'autore del nostro destino. Ma quando si pone una reale fede salvifica in Cristo, Lui è la nostra luce, è colui che ci rende comprensibile Dio e l'esistenza umana, nella sua cruenta realtà. Quando si ha Gesù come guida, pastore e maestro, ogni sentiero storto, ogni montagna irraggiungibile diventano tante sfide per dimostrare la potenza di Dio espressa nella nostra debolezza. Con questa visione della vita umana non si può che dire come la canzone «La mia anima si espande» come musica d'estate, perché non vi è anima più riconoscente di chi ha conosciuto l'amore di Dio. Se un'anima è riconoscente in proporzione a ciò che ha ricevuto, allora chi ha conosciuto l'immenso amore di Dio in Cristo non può che possedere un immenso amore nei suoi confronti. E se in seguito le ingiustizie e i dolori della vita avessero il potere di lenire questa riconoscenza, anche il cristiano direbbe: «Poi la voglia sai mi prende, e si accende con i tuoi baci». Sì. Esistono i baci umani, ma ancora di più i baci di Dio. Quei baci che ti scaldano e ti accendono quando un suo improvviso e inaspettato intervento ti risolve una dolorosa situazione. Quei baci che ricevi quando leggi da anni la sua parola, eppure essa nonostante tutto ti parla così profondamente da essere piacevolmente emozionato e profondamente consolato. Sentirsi baciato, sentirsi amato, esiste qualcosa di più bello? Ecco che allora la voglia ti prende e, come ha detto l'Apostolo Paolo, il Vangelo, cioè quello che Gesù ha detto e fatto, produce una sollecitudine divina a predicare il regno di Dio. Efesini 6 e un quarto. La canzone continua col dire «Io con te sarò sincero», perché quando si ama qualcuno, si ha il desiderio di essere genuini e schietti. Com'è possibile vivere per Dio e non essere genuini nei suoi confronti? Se si è sinceri con le persone che si amano sulla terra, a maggior ragione, com'è possibile disonorare Dio anche se la speranza è sfibrata e l'amore per gli uomini schernito? Le parole che seguono della canzone mettono in evidenza che un vero rapporto d'amore richiede la massima coerenza, mesa. Resterò quello che sono, disonesto mai, lo giuro, ma se tradisci non perdono. Se gli uomini non sono disposti a perdonare un tradimento, pensiamo a quanto meno lo sia Dio. Come potrà Dio perdonare colui che si burla della voce dello Spirito Santo? Molti hanno la convinzione che il mestiere di Dio sia quello di perdonare, ma una simile convinzione non eviterà agli increduli il giudizio eterno di condanna. Come dice la canzone, un vero rapporto d'amore comporta anche l'amicizia, non una semplice conoscenza, ma un rapporto di stima nel quale l'altro ha un grande valore. Due caratteristiche indispensabili per un vero e profondo rapporto, perché l'amicizia rende capace di tenere unito qualsiasi legame in caso di incomprensione e la stima favorisce la ricerca continua del rapporto. Nessuno è attirato da ciò che non gli piace, ma se gli è gradevole, oltre ai momenti indispensabili quando desidera ricrearsi, il suo pensiero e i suoi passi si volgeranno verso il piacevole. Ecco perché il pensiero del cristiano è rivolto costantemente a Cristo. Gesù è al regno di Dio, perché sono amabili. Con Gesù la scuola è dura, bisogna riconoscerlo, ma molto utile e efficace. Operare nel regno di Dio è salute per il corpo, per l'anima e lo spirito. Tutte cose preziose. Il ritornello della canzone è anch'esso in armonia di questi pensieri. Tra le mie braccia dormirai. Serenamente, ed è importante questo, sai, per sentirci pienamente noi. Se vi è una sacrosanta verità, nel messaggio del Vangelo, è proprio il dormire serenamente tra le braccia di Cristo. Non è la pia illusione di un religioso, ma quando si è presa coscienza di avere tutti i peccati perdonati, quando si è in pace con Dio, con gli uomini e con se stessi, il risultato è la serenità. Solo così ci si sente pienamente uno con Cristo. La sua pace diventa la nostra pace. Ciò che dice la canzone dopo, tocca. 2. L'apice della fede cristiana. Un'altra vita mi darai che io non conosco. È vero, chi ha posto con assoluta serietà fede in Cristo realizza una vita sorprendentemente e meravigliosamente impensabile. Una vita non paragonabile a nessun'altra. Per questo il credente può dire a Cristo: «Il mio compagno, tu sarai fino a quando so che lo vorrai». Gesù è salito in cielo 2000 anni fa, ma ha promesso di essere il compagno di coloro che fanno la sua volontà e fino alla fine dei nostri giorni. E chi lo realizza sa che è vero. Qualcuno mi ha chiesto come faccio a sapere che è il mio compagno. Ed io ho risposto: perché tutto coopera al mio bene, e se tutto coopera al mio bene non può esserci il diavolo come mio compagno, perché Satana e i suoi emissari cercano solo ciò che torna a mio svantaggio. Se poi non si crede né a Gesù Cristo né al diavolo, sfido chiunque a trovare sempre positivo ciò che gli capita. Il testo della canzone continua con una disarmante realtà, sia nel campo umano sia nel campo divino. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi. Come cristiano a volte mi irrito per quello che capita, ma poi riconosco che è meglio combattere con Cristo che essere in pace con il diavolo. Come dice la canzone, quando due si amano, sono persuasi che nessuno li dividerà. Se è così nell'ambito terreno, quanto più lo sarà nel campo spirituale. L'ultima frase della canzone mette molto bene in evidenza quanto ci sia di umano, mentre il divino termina molto diversamente. E vivremo, come sai, d'amore e di fiducia, poi sarà quel che sarà. Questa è la conclusione di un rapporto d'amore umano, per quanto profondo possa essere. Mentre nel rapporto divino, quando si è vissuti di amore e di fiducia, si è certi di comparire davanti a Cristo per ricevere la corona, promessa a tutti quelli che lo amano. Come ho detto, i sentimenti dell'essere umano sono profondamente meravigliosi, perché sono il riflesso di quelli divini. Ma mentre essi possono trasportarci in sogni irreali, i sentimenti divini ci trasportano in realtà che non vediamo. Per questo io provo uno smisurato eccellente peso eterno di gloria, tenendo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, 2 Corinzi 4 e 18, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. 17 gennaio 2013, Ellero 3.